La convergenza è stato il metodo con cui GKN ha provato a resistere sin dall'inizio. Non è solo una coincidenza di forze, è un prendere atto delle mille interconnessioni tra le lotte. Farei notare che mentre allargano le strade e cementificano ulteriormente per allargare tangenziali e strade, noi come operai dell'automotive le macchine non le produciamo più e non ce le possiamo più permettere, e in un mondo migliore vorremmo non permettercele più, ripeto, a favore di un'altra mobilità. Ma la convergenza è anche accumulazione di una nuova classe dirigente dal basso, perché è dentro questa interconnessione che in realtà noi approfondiamo la nostra capacità programmatica di leggere l'esistente, leggere la realtà. Un altro punto di convergenza che avremo nella manifestazione di Bologna è il contatto con le reti contadine alternative alla grande distribuzione e all'agricoltura intensiva, perché in fondo quel maledetto salario che a fatica ci portiamo a casa vorremmo che fosse usato anche per una diversa alimentazione, e in fondo il consumo del territorio a cui è sottoposto questo paese e la crisi idrica che ci colpiscono è solo un altro aspetto della rendita finanziaria che ha chiuso la nostra fabbrica. Quindi la convergenza è per questo, per altro e per tutto. Io mi mobilito per questo, cioè per il mio prevalente, mi mobilito per altro, cioè prendendo atto che sono solidale con le altre lotte, ma per tutto perché prendo atto dell'interconnessione da ogni punto di vista delle diverse mobilitazioni.